caso, anche come dimostra la trasmissione di ieri di Kix, che è andata in onda, condotta da Ludovico, che naturalmente saluto, mi sembra evidente che il podcast si stia candidando a diventare un canale di distribuzione di tutto ciò che è alternativo, cultura alternativa, musica alternativa, informazione alternativa, dando quindi una sorta di ciambella di salvataggio a coloro i quali non ne possono più, evidentemente, dell'incredibile appiattimento di tutta l'offerta mediatica commerciale. Qui, chiaramente, per esempio, quello che hanno fatto i colleghi di Indie Media, realizzando dei podcast informativi di straordinaria forza, di straordinario impatto, adesso, indipendentemente dal fatto che si tratta di uno strumento militante, indipendentemente dal fatto di essere d'accordo o meno con le loro battaglie, Indie Media è un esempio della straordinaria forza, del vigore che può avere l'informazione, anche parziale, perché no, però assolutamente non controllata da qualche editore impuro. E lo stesso mi sembra che si possa dire della cultura. Ecco, questo nuovo podcast sulla musica colta ci riporta all'epoca d'oro di Radio 3, in cui Radio 3 era veramente un contenitore dove le idee erano il grande driver e non il padrone politico, come purtroppo sta accadendo adesso su Radio 3. Ricorderete l'appello di Nanni Moretti a San Giovanni. Nanni Moretti disse che il mondo della politica cominciava ad avere paura della cultura e quindi stanno colonizzando Radio 3 perché faceva paura, appunto. E oggi abbiamo al posto di Radio 3 la sua pallida fotocopia, un fantasma di radio culturale, dove esistono dei fortini come Fahrenheit, come Hollywood Party, ma dove tutto il palinsesto è stato sconvolto, e questo dimostra la terribile capacità del mondo del potere economico e politico di condizionare l'informazione, la cultura che viaggia sui canali tradizionali. Il podcast è una ciambella di salvataggio che lanciamo a chi si rende conto che può esserci un altro modo di sapere non tanto come vanno le cose nel mondo, ma di avere uno sguardo diverso sul mondo che ci circonda.